alle polveri. Go alle polveri. Radio Vomba. E il Wombat torna ancora fuori dalla tana per dilettarci tutti e tutte con le fantastiche storie di Fuoco alle Polveri. Qua in regia abbiamo Glande Dalago quest'oggi, io sono Bricobaldo, un sacco di ospiti, un sacco di novità. Buonasera a tutti e tutte. Buonasera. Ciao Dalago. Ciao, ecco, c'ho un microfono un po' storto. Allora, il consueto ritardo di un quarto d'ora, 20 minuti, oramai ci siamo abituati, è così, se guardate il palinsesto, ritardate sempre di almeno un quarto d'ora e poi vi potete aspettare anche Fuoco alle Polveri. Di cosa parliamo oggi, Glande Dalago? Parliamo di abusi in divisa, perché non so cosa sta succedendo a Firenze, lo chiederemo alle nostre compagne di ACAD, perché negli ultimi giorni veramente veramente brutte notizie, però non solo, in questa puntata, perché ci sono stati anche degli eventi non da poco per Firenze. Sto parlando dell'incontro della Rete 7 che si è svolto venerdì e sabato, sto parlando anche e soprattutto del carnevale autogestito che ha sfilato domenica pomeriggio nel centro di Firenze, creando un grande scompiglio. Sì, molto bello è stato, dai. Sì, è vero. Sono divertente. Parleremo di sgomberi, viene stato un altro, anzi altri due nel frattempo, nell'arco della settimana. Parleremo della Squirt, che è andata alla ribalta, si può dire, è diventata famosa grazie alla Meloni. Grazie Giorgia. Grazie Giorgia. E poi infine gli eventi e quant'altro. Rubrichetta animale, è vero. E andiamo subito un pezzaccio, dai, veloce veloce. Forza. Wow. Vai. Eccoci con le campagne di ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa. Le abbiamo già avuti qua in, guarda, quando venite voi devo dire che succedono, perché sono successe cose che bruttissime. Tutto insieme, sempre. Tutto insieme, veramente. L'ultima volta parlavamo del caso Magherini, sì. Che era, poi fra l'altro c'è stata anche la possibile candidatura del fratello di Magherini, non so se avete visto, grande spaccato, sì. Appena capito che cosa stava per andare a fare, ha telato, infatti poi al posto suo c'è il farmacista di origine nordafricana, siriano, sì, esatto. Comunque parliamo ancora di cose brutte, perché il fatto è accaduto venerdì pomeriggio presso la stazione di Santa Maria Novella. Ho un articolo della Nazione qui davanti, ne leggeremo alcuni spezzoni per capire meglio che cosa è successo. Perché ti affidi alla Nazione, scusa? Perché invece poi dopo chiamiamo anche una testimone, facciamo un po' il raffronto fra quello che dice il grande giornale di Firenze e quanto invece dicono i testimoni. Allora, stiamo parlando di un'aggressione. C'era una persona africano che è stato placcato da diversi uomini, sì, in divisa. Non si capisce bene il motivo. Non è una cosa nuova, è già successo a Firenze, mi raccontavi poco fa, circa un mese fa? Sì, un paio di mesi fa più o meno è successa una cosa molto simile, infatti siamo stati contattati direttamente da nostra amica, una ragazza che comunque conosciamo molto bene, di cui ci fidiamo, infatti ci siamo precipitati subito sul luogo, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, abbiamo cominciato a chiedere, a cercare comunque fra i ragazzi che bazzicano l'intorno se qualcuno conosceva questo ragazzo, era stato portato via, abbiamo trovato gli amici, abbiamo scoperto che tra l'altro il ragazzo era minorenne, solo, senza famiglia, si trovava lì comunque gravitando intorno alla stazione, lui non aveva nemmeno fatto niente di trascendentale, come poi appunto anche il ragazzo che è stato fermato e portato via venerdì, che era stato accusato di aver scippato un portafoglio, quando invece sembra che fosse stato lui a subire questo scippo di questo portafoglio e stava cercando di capire come poterlo riavere, insomma. Abbiamo assistito per l'ennesima volta a un placcaggio stile, sì, quattro, fra l'altro polizia municipale, quattro poliziotti più due in borghese, probabilmente, esatto, della squadra antidegrado, che ha già lasciato il segno anche nel corso della sua storia. Fatto sta che l'articolo della Nazione è uscito oggi alle 10.24, la cosa risale a venerdì, loro dicono l'aggressione a due agenti da parte di un gruppo di immigrati che aiutava un connazionale a resistere all'arresto. Naturalmente forze dell'ordine bravissime, grandissime, l'area tutto intorno a Santa Maria Novella è sempre stata delicata, ma l'arrivo della tranvia ha moltiplicato la presenza di persone e l'attenzione dei malviventi, che hanno trasformato questo territorio in una nuova piazza di spaccio. Quindi la colpa intanto è della tranvia, certo. Mettiamo subito le cose in chiaro, la colpa è della tranvia che porta lo spaccio fino alla stazione, visto che non c'è mai stato veramente, no, proprio, assolutamente no. E niente, loro fondamentalmente sostengono questo, che come l'altro giorno appunto le pattuglie della polizia municipale sono intervenute in una rissa avvenuta sulla rampa al lato taxi e via discorrendo. Quindi fondamentalmente non è una cosa nuova, ci sono stati altri casi. Alla vista degli agenti si è scagliato contro di loro, lasciandogli addosso i segni della sua violenza. Solidarietà e vicinanza agli agenti feriti è stato espresso dall'assessore alla Polizia Municipale Federico Gianassi, che ha contattato telefonicamente gli agenti contusi. Ringrazio la Polizia Municipale, aggiunto Gianassi, per il lavoro quotidiano che svolge, per il rispetto delle regole e la vivibilità della città. Gli uomini in divisa sono al lavoro da mesi per fermare questo tentativo di prendere possesso del territorio da parte delle bande di spacciatori, una battaglia impegnativa che espone tutti i giorni gli uomini in divisa a questi rischi. Ma non è finita, sicuramente i controlli andranno avanti, forse con più intensità, alla luce di questi nuovi episodi che fanno stare in allarme commercianti e residenti. torna tutto? Certo, siamo sempre sull'onda di un'emergenza che ci contagia tutti e penso che comunque esatto. Il dispiegamento ingente di forze dell'ordine e l'aumento del controllo si possa constatare non solo dall'arrivo della tramvia ma anche da molto prima, insomma ci ritroviamo sempre in mezzo a militari che imbracciano mitra e continue pattuglie che girano intorno solamente anche solo per appunto incutere timore. È quello che a cui ci siamo ritrovati davanti quando proprio abbiamo cercato di andare lì di persona a capire che cosa era successo, un grande timore, una grande sfiducia, anche si può parlare proprio di paura nei confronti di chiunque si raffronti con questi ragazzi che comunque gravitano lì intorno, ma anche semplicemente perché non hanno un posto dove andare, quindi stanno semplicemente lì, si ritrovano, stanno insieme, chiacchierano, bevono una birra. Esatto, appunto si diceva la colpa è della tramvia, ci saranno rinforzi nelle strade per risolvere questo problema e quindi si può anche presumere che casi come questi saranno sempre più frequenti. Probabilmente sì, perché, visto che già ne contiamo due nel giro di un paio di mesi. Esatto, noi non ci fidiamo della Nazione, non è che... una fonte di informazione che a noi non soddisfa e quindi abbiamo una testimone che chiameremo al telefono, però prima un piccolo stacco. Si deve attaccare questo. E basta che pigi il verde. Quanto c'hai di stacco? It's kind of slow. Dunque, torniamo in diretta, abbiamo con noi una testimone dell'accaduto di venerdì, se ci sente al telefono. Buonasera. Pronto? Ci dovrebbe sentire, forse ancora... Eccoci. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, eccoci, ci sentiamo. Buonasera. Benvenuta su Fuoco alle Polveri, questa è Radio Wombat. e abbiamo già parlato di quanto è successo, abbiamo letto l'articolo della Nazione che è uscito quest'oggi e siamo qui a chiedere invece la testimonianza di una persona che era presente sul fatto per capire se quanto scritto dal giornale locale è corretto oppure no. Qui si parla di due vigili che sono stati aggrediti da una persona. Sì, contusi hanno scritto in un altro contusi, articolo. Esattamente, sì. Sì. Io non ho visto questo. Però non posso, no? Non va bene? Sì, sì, certo, ci dica che cosa ha visto. Sì, sentiamo forte e chiaro. Allora, io semplicemente non sono arrivata prima da Risso, ho visto questi due uomini che si parlavano, erano agitati, poi è andato via Lamin. E lì nell'articolo si dice che con i pantaloni abbassati, aveva un pantalone a vite bassa che gli dava un po' fastidio e lui lo tirava su, lui non era per niente che lui stava girando con i pantaloni abbassati. Certo. Era agitato, poi è andato verso i poliziotti e lì ho visto 5 poliziotti intorno a lui. E lui era per terra. Non l'ho visto aggredire nessuno. So, nell'articolo, in uno degli articoli che ho letto, si diceva che ha aggredito delle persone accanto a lui. Che fra l'altro a questo punto. Esatto. Io ero vicino, ma non so se è successo qualcosa prima della rissa, questo non lo so. Okay. Io ero vicino e io sono rimasta a guardare perché non ci potevo credere. Ecco. C'era quindi agitazione in piazza, c'era molta agitazione, c'è molti africani che si stavano arrabbiando, c'era qualcuno che diceva un ragazzo quindicenne, un ragazzo tredicenne, io mi chiedevo che cosa è successo prima, invece parlavano di Lamin, di lui. Ecco, ma e quindi lui è stato fondamentalmente steso in terra. Io ho visto dei video, sì, ci sono dei video, sì, che girano, che circolano, sì, sulla rete. È stato ammanettato ed è stato portato via. A quanto risulta a me è anche svenuto nel frattempo. Io non l'ho visto svenire. Non l'ho visto nemmeno essere ammanettato, perché c'era tanta gente intorno. Ma l'ho visto, l'hanno portato in una macchina e non mi sembrava la macchina della polizia, quindi non capivo che cosa stava succedendo. E la cosa che mi ha ferito tanto è che molti africani stavano dicendo l'Italia è paese di merda, e mi sembrava così triste e così anche ingiusto, perché io ho esperienza di tanti esempi di tentative di essere un paese non di merda, certo, diciamo, anche con i cassi e così via. Ha avuto l'impressione che fosse un'azione esagerata quella della polizia? Sì, cioè, mi sono detta una è necessaria per una persona, perché pensavo che fosse una sola persona, che se tu lo vuoi accompagnare qualcosa è necessario stenderlo per terra, non mi sembrava necessario. Era agitato, questo è vero, ovviamente. Beh, certo, con 5 diceva persone che cercano di placcarti, forse mi agiterei anch'io. Sì. Vabbè, ora questa è una considerazione personale, però di fatto è stato caricato su questa macchina e è andato via. Mi interessava un po' anche le reazioni delle persone intorno, perché a quanto ho capito dei ragazzi africani si sono agitati molto, voi siete rimasti esterrefatti, altre persone hanno reagito come nel caso? No, ho visto solo una persona che un italiano che abbracciava gli africani per calmarli. Questo era un gesto notevole. Non c'era molta gente, non c'erano molti italiani intorno, la maggior parte erano africani che ovviamente erano agitati. E come dicevano questo, uno che diceva che gli è stato rubato il portafoglio, un altro che diceva che aveva, che era un ragazzo tredicenne, allora io mi dicevo che è successo qualcosa prima per creare questa agitazione, non si capiva, invece erano lui, diciamo, 13 o 15 anni, pare che sia maggiorenne. Sì, appena so. Maggiorenne pare che sia. Non lo so. Allora, ho ma qui... mi sembrava che, diciamo, 18enne, mi sembrava minimo questo. Ok. Che sensazioni ha provato successivamente? No, mi sono indignata con questi articoli sui giornali. Per quale motivo? Perché... ma anche solo a dire che un ragazzo gira con i pantaloni abbassati già ti crea un'immagine che non è quello giusto, ti crea l'idea di che sta cercando di fomentare odio. Credo che noi dobbiamo essere molto molto bravi a distinguere fra le cose e a dire quello che uno vede e... bene. Se no veramente si va in una spirale di odio, che è facile che tu sei giornalista, prendi un racconto di qualcuno, lo piazzi in un giornale e non aiuta nessuno. Esatto, non aiuta nessuno se vengono scritte cose che poi non corrispondono alla verità. Intanto mi sento di esprimere una grande solidarietà sia al ragazzo fermato che a te e alle persone che hanno assistito alla scena, perché sono cose che rimangono impresse nella memoria. Poi ho qui accanto a me delle persone di un collettivo che si occupano di questioni come queste, forse hanno qualche parola da rivolgerti. Ciao Susan, sono Carlotta. Ciao. Di ACAD, l'associazione contro gli abusi in divisa. Noi purtroppo abbiamo a che fare con situazioni simili spesso e c'era già capitato proprio lì, proprio alla stazione Santa Maria Novella, di avere a che fare con un avvenimento molto simile. Ora che hai detto il nome del ragazzo, che è Lamin, molto probabilmente penso che si tratti della stessa persona, se non dell'amico con cui ho parlato io, perché mi sono recata di persona insieme a un altro nostro rappresentante componente dell'associazione per capire che cosa era successo. E quello che purtroppo mi sento di dire in questo caso è che spesso e volentieri rappresentanti delle forze dell'ordine o comunque tutori dell'ordine che si trovano a dover difendere, in qualche modo si sentono di dover difendere la popolazione, probabilmente in questo caso hanno agito in maniera molto avventata e essendosi resi conto delle azioni esagerate che avevano poi portato a termine, si sono serviti di quelli che sono i mezzi di comunicazione come i giornali, come La Nazione, come tutti i quotidiani che leggiamo, per fornire delle versioni che potessero in qualche modo giustificare quello che era stato il loro comportamento. Sì, sì. C'è stato il problema oltre Arno con il ragazzo uomo Magherini. Sì, sì, Riccardo, sì, Magherini. Sì, sì, l'abbiamo seguito. Cioè, può darsi che ci sia una reazione anche a spropositata proprio per difendersi da attacchi da pubblico. Esatto, per tutelarsi in qualche modo, per tutelare il proprio operato e difendere a costi quel che costi anche la loro immagine, insomma. Sì, questo non lo posso sapere, ma è un'ipotesi. Certo, sì. Certo. Sì, non lo possiamo sapere in questo nel caso di venerdì, lo possiamo sapere bene sabato, nel caso era di sabato. Sabato. Venerdì. E niente, detto questo, intanto vi dobbiamo ringraziare anche per aver diffuso i video che sono stati girati e sono fondamentali. E una piccola nota, si può dire, perché gli uomini in divisa erano della polizia municipale, probabilmente due di questi erano in borghese e della squadra antidegrado e quindi poi andiamo a finire su questa lotta al degrado che porta a questo in fin dei conti. Il problema è che la vera lotta al degrado è trattare bene le persone e trattare tutti bene, certo. Tutti come esseri umani, anche italiani, anche cittadini italiani, perché secondo me spesso cittadini italiani non sono trattati come persone, sono trattati come numeri. Beh sì, appunto citavamo Magherini, si trattava di un cittadino italiano, non solo fiorentino. Sì, sì, sì. purtroppo parliamo di persone che si trovano comunque a vivere situazioni a rischio, quindi vengono giudicati sì, pericolosi sì, per se stessi o per chi gli sta intorno. Sì, ma purtroppo io non ho avuto paura. Immagino. No, non ho avuto paura. Non ho avuto paura. La piazza era agitata, sì, ma non mi facevano paura. I ragazzi? I ragazzi, sì. Certo. Sì. Va bene. Me ne sono andata dopo, me ne sono andata, mi sono detto mi devo anche salvaguardare, questo è anche vero. Sì, questo assolutamente, perché poi le persone che si trovano di fronte a situazioni come queste si fanno carico di pesi che in verità non spettano ai singoli cittadini, ma spetterebbero alla collettività, e questo perlomeno personalmente... Ma per fare questo bisogna avere un giornalismo attento, oggettivo, capace reale di vedere più punti di vista e anche a ricostruire più punti di vista. Noi non ce l'abbiamo, questo è uno dei sì, problemi. Sì, sì, concordo. Bene, Susan, dunque noi ti ringraziamo per la testimonianza veramente preziosa e beh, ti rilanciamo anche se vuoi venire ospite da noi, siamo aperti, siamo disponibili, magari ne parliamo più con calma e chissà. Grazie, Susan. Vedremo. Prego. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao. Dunque, che dire? Giustamente una persona si è trovata di fronte a una situazione del genere, giustamente ci è rimasta male. Giustamente non capiva che cosa stesse succedendo, perché comunque non ha identificato né l'aggredito, cioè probabilmente dopo ha identificato l'aggredito, però gli aggressori non li aveva nemmeno identificati. Esatto. No, fra l'altro è curioso il fatto che una persona che dice anche di avere esperienza, di aver avuto esperienza CAS, con i migranti, sì, nei CAS, poi si trovi di fronte a una situazione così e non abbia idea di ciò che realmente succede. Sì. Si può dire quotidianamente a questo punto, quotidianamente sul nostro territorio, alla stazione di Santa Maria Novella, a due passi veramente da casa, qual è la situazione, la complicità, è rimasta anche stupita dalla complicità dei mezzi di informazione. Noi non rimaniamo più stupiti, però di una cosa io rimango impressionato, del fatto che è successo questa cosa sabato, del fatto che era solo mercoledì notte quando sempre a Firenze vi è stato un agguato da parte della Scillere a due pullman di tifosi atalantini. Io ho visto che voi vi siete occupati anche di questo. Sì, abbiamo contribuito a fornire delle versioni discordanti ancora una volta da quelle che sono le versioni dei giornali ufficiali, quindi noi abbiamo appreso l'accaduto dalle testimonianze dirette dei tifosi atalantini che stavano ritornando a casa loro dopo la partita. Abbiamo scoperto ancora dopo che comunque era stata giudicata una trasferta a rischio, tanto che la questura di Bergamo si era avvalsa della tessera del tifoso per riuscire a identificare determinati magari individui più a rischio e che non erano stati proprio fatti partecipare alla partita, quindi nemmeno si trovavano lì sul luogo. Probabilmente tanta era la foga, tanta era l'aspettativa di trovarsi in mezzo al casino che alla fine, queste sono supposizioni nostre, non lo possiamo certo sapere, però quello che sappiamo è che due pullman sono stati fermati all'imbocco del casello, pochi metri dal casello sul Varlungo. Esatto, e i tifosi non sono nemmeno scesi, sono rimasti tutti sull'autobus. Questo lo sappiamo sempre dalle testimonianze dirette sia dei tifosi che degli autisti. E a quel punto la Celere è salita armata di caschi e manganelli e ha cominciato a fare quella che è proprio una vera e propria mattanza. Questo l'abbiamo visto dai referti, l'abbiamo visto dalle foto, lo vediamo dai video, lo sentiamo negli audio. Insomma, è una cosa abbastanza sconcertante che ogni volta ci si ritrovi poi davanti a delle versioni ufficiali, che poi sono quelle ufficiali, che sono pura fantascienza. Esatto, sì, due dei pullman fermati in un tratto dove non esistono telecamere, completamente al buio, completamente scollegato da tutta la città, così come dall'autostrada e dal casello, e dopo che gli hanno fatto fare un giro assurdo per arrivare fin lì, e le prime notizie che sono arrivate non erano affatto corrispondenti poi alle testimonianze. No, assolutamente, infatti si parla di celerini aggrediti, nasi spaccati, tifosi atalantini con le mazze per la strada, insomma, cose che lo vediamo dai video, lo sentiamo. Non c'è niente di tutto questo. Nulla. Niente. Di tutto questo. Qualcuno si vede dal video dei celerini che si tiene il naso con le mani, ma probabilmente la manganellata l'ha presa da uno dei suoi colleghi, perché un pullman al buio. Ma perché tutte queste azioni così? C'è un incremento oppure che ce ne accorgiamo solo adesso che succedono? C'è qualcosa che sta cambiando secondo voi? Beh sì, chiaro, lo Stato, cioè comunque il governo, il nuovo governo comunque formato da un ministro dell'interno che esalta le forze di polizia, comunque ne fa anche quasi le veci, cioè si porta a giro le magliette, vuol fare lo sbirro pure lui, poi alla fine ci ritroviamo con un sindaco di Bergamo che è pure leghista e che ha pure chiesto un'interrogazione parlamentare per questi fatti qui. Salvini non si è espresso però, non ha detto si può niente. Parlare di Stato di polizia? Se ne può parlare sì. Certo, ma non solo adesso, non è che è solo con Salvini che se ne può parlare, se ne parla ormai da un po'. Ora con lui si stanno comunque attualizzando tutte varie correnti di allarmismi e cose varie che già avevano pervaso l'Italia comunque anche 10, 20, da 20 anni. Insomma, siamo sempre sull'onda dell'emergenza, siamo sempre a combattere questo degrado, e comunque gli ultras sono da sempre fra quelli che comunque sperimentano le tecniche repressive sulla propria pelle per primi, cioè negli stadi si parla di taser, si parla di DASPI, sono cose che poi vengono applicate anche alla strada. Sì, sì. È un po' il banco di prova lo stadio per questo, prova, per poi sì, perché comunque gli ultras li puoi picchiare, li puoi daspare, li puoi denunciare, perché certo, tanto sono violenti, sono aggressivi. Certo. E sta bene. Senti, ma abbiamo una medicina almeno preventiva per tutto questo? Ci potrebbero essere anche numeri identificativi volendo, ma per non esempio. Ci sono. Quindi anche qui si ritorna a parlare sempre delle solite cose, cioè anche noi portiamo avanti la campagna per il numero identificativo. Noi ci ritroviamo ancora una volta, se volessimo aprire un processo, un'indagine, verrà comunque già ci sono in corso dei provvedimenti, però comunque è sempre un'indagine aperta contro ignoti, perché te non ti ritrovi nell'impossibilità di identificare chi ti sta davanti. Certo, non è la soluzione il numero identificativo, ma ti può dare un minimo di prevenzione almeno. Ebbene sì. Cara, i tempi stringono. Certo. L'ultima cosa che volevo farti ricordare è un po' il grande lavoro che avete fatto con il Vlad. Questa era la medicina preventiva di cui parlavi. Beh, allora parlavi di quello. Beh, oddio, sì, il Vlad è una medicina preventiva per noi, dal punto di vista anche... Per noi, certo. Certo, dal punto di vista di conoscenza, no? La nostra primaria conoscenza, le nostre armi, il nostro intelletto, il nostro sapere. E sì, invito tutti a scaricarlo, il Vlad è online, è gratuito, è un manuale di autodifesa legale in cui ci sono riportate tutte le varie casistiche di abusi in cui ci si può ritrovare, dagli studenti ai migranti, ai lavoratori, ai militanti, a chi vive comunque una vita diciamo in certo senso a rischio, perché si ritrova comunque a portare avanti delle battaglie personali o politiche, insomma. Esatto, si scarica dalla vostra piattaforma, che si scarica dal sito di Alter Ego Fabbrica dei Diritti. Benissimo. E l'altra associazione con cui l'abbiamo scritto è in PDF, a colori, in bianco e nero, come volete. Esatto. Rilanciamo naturalmente anche i contatti di ACAD. Sì, la nostra mail è infoacad@autistici.org. No, scusami, infoacad@inventati.org. Quella di Firenze è acadfirenze@autistici.org. E poi la pagina Facebook a cui rispondiamo sempre ai messaggi. Avete anche un numero verde? Abbiamo il numero verde... che però non ce lo perdiamo, allora lo diciamo, ve lo diremo prestissimo, il numero verde, perché naturalmente ACAD, quando in un caso di presunto di abuso o di presunto abuso, lo potete chiamare. Certo, e loro tendenzialmente il numero sono... attivo è il numero verde è attivo 24 ore su 24 e Ora ve lo dico. Sì. E... 800-588-605. Beh, bravo. Perfetto. Velocissima. Detto questo, noi mandiamo grazie un pezzo mille. Passiamo ad altro. Grazie mille. Ciao ragazze, a tutti. Viva il Wombat. Viva il Wombat, bravissima, l'hai detto. Love is black as sin. Cara Firenze, ci conosciamo da quando sono nato, da quando ho mosso i primi passi, da quando ancora la luce non entrava nei miei piccoli occhi vuoti e il mondo era una confusione di sensazioni. Ho vissuto sotto le tue strade, respirato la tua aria, mangiato quello che mi offrivi, dormito nel tuo ventre caldo e molle. La mia gente in queste terre, da quando eri ancora una valle di gigli, una palude selvatica, e noi ce ne stavamo sulle colline, ad evitare l'umido delle tue sponde. Ci conosciamo da sempre, Firenze, ma ora sono vecchio. Le mie membra spossate non ne possono più della tua terra dura. Sono costretto a dirti addio. Sai, per tutta la vita ho cercato l'amore nei gesti, nei suoni, ma solo ora mi accorgo che questo legame che ci stringe è un cappio alla mia libertà, il tesoro a cui non voglio rinunciare. Mi crederai sciocco, forse infantile, perché sappiamo entrambi benissimo che su questa terra non vi è indipendenza. Siamo tutti immersi in un brodo di rapporti che ci combinano e ci scombinano con gli altri. Eppure, tu mi conosci, sono un credulone. Mi piace sperare che da qualche parte, tra il mio cuore e il mio cervello, ci sia questo piccolo barlume di autonomia che mi permette di scegliere ed essere me stesso. Tu hai creduto negli dei antichi, hai cambiato i loro nomi, li hai chiamati santi e oggi ne osanni le insegne nelle vie del centro. Quindi puoi capire, mia amata, questo bisogno irrazionale che dà valore ad ogni mio respiro. Il primo ricordo che ho di te, se ci penso, è il tuo odore. Il tuo odore forte di madre, il tuo odore di schiacciata calda la mattina, di lampredotto a bollire, di piscio della sera prima, il tuo odore di alberi e prati nascosti, che ora è solo smog pestilenziale. Per noi, che amiamo ed allattiamo i cuccioli, l'odore della madre è fondamentale, ti guida verso il seno, ti dona il nutrimento. Perdere quel profumo animale di carne e sudore è un lutto che ti segna per sempre. Una sera, andando in giro con gli amici per le tue piazze, ho incontrato un ratto, venuto da chissà dove, tutto rasato e bellicoso, in tuta mimetica e col fucile in braccio. E no, Firenze, non puoi farmi questo. Tu che mi hai insegnato ad andare oltre, tu che mi hai chiesto di non essere mai banale, tu che mi hai messo di fronte alla grandezza dei maestri, non puoi reprimermi così. Non capivo bene perché quell'orrido animale fosse lì. Cosa c'entrasse con te? Con noi. Lo vedo che siamo simili, io e quel rattaccio. Vedo lo stesso corpo, la stessa anima, ma lui ha scelto di esserti nemico, di controllarti, di opprimerti, amore mio, ed io soffro a vederti così, schiava delle tue stesse paure. Proprio te, che mi hai donato la visione grandiosa dei tuoi palazzi e del tuo duomo trasfigurati dalla miopia e dalle allucinazioni, proprio te, che mi hai preso per mano nei parchi a primavera per fumare la tua anima tra i draghi del Parnaso e le serre bianche di ferro leggero, proprio te, che nelle notti di delirio mi hai confortato con la certezza della solitudine, ora riesci ad escludermi dalla tua vita, mi tieni distante, al mio posto, ti neghi alle mie mani che vogliono tornare a scavare la tua terra. Ricordi, Firenze, quando sulle rive dell'Arno mi hai presentato l'airone? Quel nobile uccello che per secoli ha popolato gli incubi della mia gente. Sai, i miei nonni giuravano mangiasse i cuccioli della nostra specie. Ed ora, grazie a te, è diventato un compagno fedele nella lotta quotidiana per la vita e per il pane. Non ti sarò mai abbastanza grato per quello strano pomeriggio in cui, uscito dalla tana in un affratto vicino alla pescaia, il volo di quell'essere angelico mi attrasse verso le acque torbide. E quasi finivo annegato se non fosse stato per la tua intercessione, madre mia, che tramutata in becco di pescatore mi hai strattonato la collottola portandomi in salvo. Ti devo tutto, in ogni tua forma. Ti ho toccata per anni, pietra per pietra, ferro per ferro, filo d'erba per filo d'erba. Conosco a memoria le tue rugosità, il tuo volto insieme sabbioso e compatto, le tue strade impenetrabili con gli artigli. Qualsiasi corpo prenderò in prestito dopo questa vita, le tue tracce saranno indelebili nel mio spirito. Il tepore dorato delle tue strade, gli strascichi di rosa nel cielo del tramonto che mi sono trovato a indovinare tra i riflessi dell'acqua. Mi è già impossibile dimenticarti, nonostante questi 7 lunghi anni di vita pesino sulle mie minuscole spalle di talpa. Mi avvicino ogni giorno sempre più alla fine, e avrei voluto dormire un'ultima volta nella sabbia delle tue spiagge, all'ombra del pino dei ciompi, nelle aiuole di Piazza Tasso, nei vasti prati delle cascine. Ma il mio volto cieco, alle mie zampe da scavatore, alla mia timida voglia di condividere i pochi lombrichi superstiti, hai preferito la voracità del piccione, che non ti ama, che ti divora a colpi di becco nei retrobottega dei ristoranti per turisti e ti caca in testa sulle statue dei tuoi eroi, che ti erode come una pioggia acida e non lascia dietro di sé che un tubare isterico e senza armonia. Hai perso per sempre le mie mani forti e io ho perso per sempre il tuo braccio amorevole. Tuo, Ted La Talpa. Racconti di animali, animali urbani. E questo è il Botta, un applauso. Bravo Botta. Ciao. Ciao, benvenuto a Fuori Polveri. Yo, prima volta a Wombat. Prima volta nel Wombat. Guarda, Wombat. Sono cugini, Wombat e Talpa, sappilo. Sì, sì, infatti, piccoli mammiferi urbani. Piccoli che si mammiferi incontrano. Urbani. Probabilmente il triangolo potrebbe essere Wombat, Talpa, Topo. Hai citato anche un topo. Eh sì, infatti parlavamo anche... dei topi prima in realtà con Akad. Esatto, esatto, sì, infatti. Hai citato anche un drago e quindi noi abbiamo anche qui noi. Ah! Noi abbiamo il glande drago. Un glande drago in regia. Bene, raccontaci un po', che cosa ci hai letto? Ah, vi ho letto una lettera di addio a Ted, che è questo personaggio immaginario nato... durante un'azione dell'assemblea dei cardatori di Piazza dei Ciompi, che è una talpa e che inizia, diciamo, il suo percorso, la sua vita narrativa con un addio. Esatto, e fra l'altro è stato letto per la prima volta giusto venerdì sera. Sì, venerdì sera durante il primo giorno della nazionale di Rete Set, che è la rete del Sud Europa, Facing to Justification, perché non è against, è facing, è facing. Non è contro, è di fronte. E ci sono stati vari eventi, è partita la mattina, in realtà prestissimo, con il collettivo Brutto, che è un po' all'insaputa di tutti, ci ha donato questo nastro meraviglioso in Piazza dei Ciompi, che vero, finalmente verissimo. Ci ha detto che è brutta. Ed è stato un sacco di interesse, fra l'altro ho visto anche i giornali ne hanno parlato. E poi abbiamo continuato col presidio contro la vendita di Mondeggi. Esatto, vendita di Mondeggi, che possiamo dirlo a questo punto, non vi è stata nessuna offerta e quindi Mondeggi rimarrà in mano alla comunità e a tutti noi, e potremo continuare a gioire dell'immensa comunità che ne è venuta fuori. Viva Mondeggi, viva le autogestioni, non lasceremo mai spazio a questi investitori. Mai, mai, mai, mai, è vero, c'è stato il presidio il lunedì mattina, diversa gente sotto la città metropolitana, è stata poi diventata quasi una festa, visto il risultato. E poi dove siamo andati? E poi c'è stata la passeggiata con Firenze No Cost, che ci ha portato in giro per le strade di Firenze, abbiamo potuto ascoltare gli aneddoti della Firenze, quella true, quella vera, quella popolare, che diciamo questo mercato fa finta di comprare, ma in realtà la distrugge. È vero, abbiamo iniziato, siamo partiti dalla stazione Santa Maria Novella, Cinema Apollo, Mercato Centrale, Sant'Orsola, Piazza San Marco, Piazza del Santissima Annunziata, poi siamo andati verso Piazza dei Ciompi, sì, Piazza dei Ciompi passando da Brunelleschi, quindi ci sono stati tutti i vari interventi in questi punti, che sono i punti, alcuni dei punti simbolici, ecco, dove la speculazione si sta portando avanti in modo molto repentino, per poi finire in Piazza dei Ciompi con uno spettacolo bellissimo, tra l'altro, a cura del laboratorio teatrale della Polveriera. Si chiamava Spigoli, vero? Si chiamava Spigoli, sì, era sull'incontro casuale in città. Diciamo c'è stata un po' sta marcia dei turisti all'inizio, che è la parte che anche in prova destava un pochettino di attenzione nella gente, sì. Che è un po' scimmiotta anche il ratto e gli scorsi sì, di sì. Prima e poi sì, siamo diventati Spigoli, cioè per marcare un po' il fatto che non c'è tanta differenza tra il cittadino e il turista, uno e l'altro diciamo sono due realtà compenetrabili, l'importante è rendersi conto di cosa si sta facendo e non diventare anche noi beceri turisti che vanno lì a sfruttare una città, ma piuttosto viaggiatori. Esatto, perché uno spettacolo e perché in Piazza dei Ciompi?

Dopodiché arrivo a Barcellona. Io non sono parte di quello del nucleo della Rete 7 che la detesta, che è l'assemblea dei quartieri che sono a favore di un turismo sostenibile, però sì che ci incontriamo trasversalmente un poco, perché come a Venezia uno di noi sta in 12.000 cose, perché poi tutte si attraversano, e dall'altro perché un mese fa circa si è creato un gruppo di lavoro che è un gruppo per la crescita turistica, nella quale siamo entrati molte persone che vengono da altri ambiti e abbiamo fatto una sola riunione. È stata molto molto bella, molto molto potente, c'è gente molto potente dentro, e l'idea è iniziare a lavorare, a riflettere per capire come si deve ricrescere, perché questo è di una città che è collassata. È come la coscienza che se non lavoriamo su quello non c'è nulla che altro sul quale possiamo lavorare. E mi aggancio a una cosa che in realtà non nasce nell'ambito del gruppo di crescita, però si nasce dai movimenti per la lotta alla casa, che sono due iniziative che voglio proporre, semplicemente anticipare, e poi ne parliamo domani, magari se potessero essere integrate nei tavoli di lavoro come proposte potrebbe essere interessante. La prima è il 6 aprile a Barcellona stiamo organizzando una manifestazione sulla bolla degli affitti. È una proposta che viene da Berlino, che noi abbiamo preso e sulla quale abbiamo iniziato a lavorare per fare una manifestazione dove il concetto d'affitto non è solo il concetto d'affitto standard, ordinario, se non anche l'affitto turistico. A gamba tesa. La compagna di Barcellona l'abbiamo stoppata perché il nostro tempo stringe, ma possiamo ritrovare tutti i contributi di venerdì, almeno tutta la presentazione di venerdì, e con le varie città, i vari intenti di set, li potete ritrovare sul Wombat, posta wombat@insiberia.net, quella è la mail, wombat.noblogs.org è il blog dove trovate i contenuti di questi 3 giorni, che è proseguita il sabato con 2 tavoli di lavoro, uno sulle infrastrutture e uno sull'urbanità e sul vivere la città, e il Botta qui, architetto urbanista, si starà mi frusterà. Dopo di questo c'era anche un laboratorio teatrale con Ex Voto Fascist di sovversione artistica, vero? Sì, Ex Voto, che di solito si occupa, diciamo, dai, di arti grafiche, almeno qua a Firenze è noto per quello, la Madonna del Panino, la serie sui paperini e roba così. E invece ha rivelato il suo lato terrante, che è un po' anche il leitmotiv artistico di tutto questo periodo. Praticamente si è fatto un attacco psichico sul modello di quelli del collettivo Luther Blissett negli anni 90. Ecco, infatti, perché il laboratorio è finalizzato alla giornata di domenica, dove in una prima parte, in polveriera, sono stati redatti documenti conclusivi della 3 giorni 7, che saranno diramati a brevissimo, ancora non sono pronti ma ci manca veramente poco, e appunto i laboratori artistici e i lavori del sabato erano finalizzati al pomeriggio della domenica, perché c'è stata la prima grandissima e mirabolante edizione del Carnevale Autogestito. Beh, Carnevale Autogestito, che è stata una ficata gigante. Siamo partiti alla polveriera nel primo pomeriggio, naturalmente col solito quarto d'ora di ritardo, come certo. Dicevi. E carri autoprodotti, ma c'erano 2 carri, uno dell'occupazione di Via del Leone, bellissimo, un grande leone di cartapesta davanti alla Basilica di Santo Spirito, e poi c'era il grande carro della polveriera da Spazio Comune, era un carro rappresentativo di tutte le attività che vengono, diciamo, delle principali attività che vengono svolte all'interno dello spazio, e potete trovare le foto a breve, noi non ve le diamo le foto. No, no, no, qua solo voce. Solo voce, musica. Per forza. Audio. No, siamo partiti quindi carichi, con i fiati sprecati in testa, che ci hanno mandato avanti con la musica, ci hanno dato un sacco di energia. E sì, l'azione dell'attacco psichico l'abbiamo fatta in Piazza del Duomo, di fronte all'InfoPoint. Al punto. Il male. Il male assoluto. L'idea era quella di far sollevare l'InfoPoint da terra. Farlo levitare. Sì, farlo levitare con una serie di attacchi di... Ci siete riusciti, vero? Ma certo che ci siamo riusciti. No, io ho visto pure calcinacci a terra dopo. Non te, ma... bellissimo. È stata veramente una giornata divertente, delirante. Abbiamo sfilato dalla polveriera giù fino al Duomo, Piazza della Repubblica, poi Ponte Santa Trinita per risalire verso Santa Croce e finire in Piazza dei Ciompi. Di nuovo a Piazza dei Ciompi, vedi, si ritorna lì. Abbiamo, con un po' di musica, qualche sgranocchiello per bloccare lo stomaco e poi tutti stanchi ma soddisfatti. Ce ne siamo tornati a casa. Quindi... speriamo che questo diventi una tradizione. Carnevale all'autogestione. Carnevale ogni autogestione. Anno. Bella attenzione, roba. Esatto, non sarebbe la prima volta. Vi sono in alcune città tutto questo è diventato una... Allora, parlavo con una compagna veneziana proprio qualche giorno fa in occasione della Tre Giorni e anche da loro il carnevale veneziano, diciamo, è l'evento principe della stagione invernale. Cioè Venezia si riempie per, fondamentalmente per questo. Quindi il carnevale è anche stato ritirato fuori dall'amministrazione apposta per avere un ingresso forzato di migliaia e migliaia di turisti. I veneziani scappano letteralmente da Venezia in quei giorni. Per contrapporsi a tutto questo, negli anni è nato un carnevale autogestito anche lì, che però ha avuto diverse difficoltà perché era diventata una cosa, passatemi in termine, folcloristica, e quindi addirittura l'amministrazione ha pensato di inglobarlo nel calendario del carnevale ufficiale, rovinando di fatto la festa a chi invece cercava di fare qualcosa di alternativo. Noi non ci facciamo inglobare da nessuno. questo è sicuro. Speriamo. Però, allerta. Dai, noi andiamo avanti. Con un pezzaccio che Grande Drago ha selezionato per noi. Che cosa ci spari? Ma posso parlare nel frattempo? Dai, però, almeno non lasciamo tutti questi vuoti per gli ascoltatori e ascoltatrici, che se no spengono oppure cambiano. Se cambiamo frequenza non è un gran male, sulle 13.59 non c'è niente. Cioè, sulle AM non c'è niente, ci siamo praticamente solo noi, quindi di fatto poi alla fine... 10 secondi te li riempio io dicendo che anche a Caserta dei compagni da cui siamo stati l'anno scorso hanno organizzato un carnevale autogestito senza nemmeno sentirci, quindi le vie del karma uniscono, vedi, i compagni. Vedi, stessa cosa viene fatta anche a Napoli, tutti i centri sociali sfilano con... un carro a testa per le strade della città. Noi pensavamo di essere fighi, di esserci arrivati per primi, invece piano piano stiamo scoprendo che lo fa un botto di gente, solo che non ce le comunichiamo fra di noi, e quindi sembra di essere davvero fighi. Sempre gli unici, sembra. Sì, esatto. Un pezzo, ecco, allora. È arrivato. Che cos'è? Quella. A Firenze da troppo tempo ormai non c'è tranquillità. Per bere una birretta devi stare dentro al pub. Di già con Matteo Renzi mi sentivo soffocar, ma Dario Nardella lui mi fa ancora più indignar. Fenomeno di incapacità nei libri di storia ci sarà, ma solo se li scrive sua sorella. Il sindaco Dario Nardella. Sul tram lui sta, passeggia un po', saluta pure te. A una certa esclama, Allah Akbar, simpatico com'è. E neppure se c'è un morto, pensa prima di parlar. E in manifestazione, prese un gran sputacchione. Eh sì, ce l'han tutti con lui. Un po' di musica folk per me. Vai Dario! Tassa col violino mentre svende tutto via. Vuoi stare in santo spirito? Gli sembra una follia. Menniti con gli sbirri l'abbiamo visto festeggiar. Col centro a bed and breakfast, buona fortuna se puoi abitar. Neanche avrai tempo di dirba che ti ritrovi un altro cap. Per colpa del decano di Nardella. E fascia da sindaco, ciuffo da parroco, piace assuma, primo ai sondaggi, ma chi li fa? La scalinata, meglio non affiar, con l'aeroporto, ci stupirà, centro sociale, da scomperar. Sceriffo sindaco Nardella, e chatta la buca, con la sua app, la fototrappola ti beccherà, tutta la piana questo lo sa, anche lo stadio presto farà, vuoi la schiacciata scappa di qua, questo è il decoro di Nardella, yeah! Comperato il rovo. Stamani il rovo, occupato da oltre 4 anni nel nome di una terra senza padroni, è stato sgomberato con arroganza. Sgomberato dai vigili urbani del comune di Firenze, dai pizzardoni del potere. Sgomberato assieme ai suoi occupanti. Sgomberato a cura di questo comune di sinistra, servendosi a piene mani del decreto Salvini e di poteri peraltro già ampiamente esistenti. Il rovo, fin dalla sua occupazione il 7 febbraio 2015, è stata un'esperienza di autogestione agricola in territorio cittadino, sempre più degradato da speculazione e spaccio. Un'esperienza dura e difficile. Ne fanno fede i 4 incendi dolosi che ha dovuto subire. Laddove non sono arrivati gli spacciatori di eroina, sono arrivati stamani gli spacciatori di legalità, in piena collusione con quelle delle polverine varie. Ogni occupazione antagonista in questa città è sotto sgombero coatto, dal rovo alla polveriera, da Viale Corsica alle occupazioni abitative, da Mondeggio e Via del Leone ai centri sociali. È ora di cominciare a dare una risposta collettiva e di classe a tutto questo stato di cose, e una risposta non fraintendibile. A partire da oggi è presidio continuo in tutte le realtà occupate e antagoniste fiorentine, al di là di ogni particolare. Presidio attualmente chiamato al Fondo Comunista di Via Rocca Tedalda 277, alle case minime. Il rovo non si sgombera. Resistenze contro l'eroina e per l'autogestione. Esatto, questo è successo settimana scorsa. Era esattamente martedì mattina. E il rovo è stato sgomberato per, penso, la 5ª volta. Stamani sono andati a murarlo, fra l'altro. E detto questo, l'ha citato anche lui, la polveriera, i centri sociali, i Mondeggi, il Leone e via discorrendo. Tutti gli spazi sono in difficoltà, sono sotto attacco, la repressione picchia veramente forte, ma loro si organizzano, eh? Ora, ieri abbiamo visto il carnevale, ma il carnevale si sa, ogni scherzo vale, ma gli altri giorni dell'anno chissà cosa può succedere. Il Botta ha da farci un annuncio. Sì, il Botta che vi sta per lasciare domani, anche se siamo in periodo di carnevale, comunque un giorno abbastanza triste perché è il primo anno dall'uccisione, dall'assassinio di DDN sul ponte Vespucci. Vero. Nel pomeriggio ci sarà presidio la manifestazione. Presidio alle 17. Cioè, alle 17. Domani. Ok, ottimo, ci vediamo al presidio. E domani mattina Botta farà nell'orario dell'omicidio una performance, una piccola performance piazza lì al Ponte Vespucci. E quindi ci vediamo la domattina. Viva! Viva i Botta, viva tutti. E, che si fa? No, non ci fermiamo qua. Non ci fermiamo qua. Parlavamo di sgomberi, parlavamo di resistenze, e resistenza è proprio ciò che è nato dalla situazione attuale. Vi sono, è una rete, è un coordinamento fra tutte le realtà. Fino adesso sono state fatte delle iniziative insieme, si sta parlando di una biciclettata di circa una settimana fa, si sta parlando del carnevale che risale a ieri, ma si sta parlando anche della mappa nuova della città fatta proprio dal coordinamento resistenze. La potete trovare negli spazi sociali e vi è un sunto di quello che sono, uno per uno, delle attività che vengono svolte e del perché sta succedendo tutto questo. Ma le novità della settimana non si sono fermate qua, perché non so se avete visto Giorgia Meloni, che cosa ha avuto da ridire. No, nessuno di voi l'ha visto? Certo, Dlago, che cosa hai visto, grande Dlago? Che ha retweetato un... Che cosa ha retweetato? No, aspetta, però non me lo ricordo così bene. Dillo, secondo me la stai per dire giusta. Oh, che cosa hai retweetato? Devo stare zitto. No, dillo. Non me lo ricordo! Il tema è la Squirt Parade. Sì, esatto. La Squirt Parade ha fatto incazzare la Meloni. Non mi ricordo la scritta precisa, però. Allora, praticamente, sì, Giorgia Meloni ha fatto un tweet dicendo ciò. Solidarietà di Fratelli d'Italia a Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, minacciato di morte dai centri sociali a Firenze. Se non la pensi come loro e difendi la vita e la famiglia, allora meriti di finire appeso. Mi fate schifo. E poi ha ritwittato la foto del... dello striscione della Squirt che dice: contro la violenza di genere e contro violenza di genere e confini, abbattiamo il patriarcato, appendiamo Gandolfini. Quindi ci avevano fatto la rima, direi perfetto, cioè va benissimo, non mi sembra che ci sia niente di strano in tutto questo, però la Meloni se n'è presa. Io penso che questo abbia rallegrato alquanto la Squirt. Dici? Beh, voi che dite? No? Ci sta, dici, cioè... No, guarda, ma forse era invitare qualcuno della Squirt da qui. Ma ci abbiamo un numero di telefono? Si chiama qualcuno per sentire che ne pensa? Così estemporanea? Così? Dai, ci mettiamo forza. 3 ore e non rispondono, no, scommetti? Non è vero. A parte, se è vero, potrebbe non rispondere qualcuno della Squirt. Però noi ci proviamo lo stesso, eh? Beh, intanto io rimanderei, cioè manderei la rubrica. Dai, va bene, intanto mandiamo una rubrica che abbiamo, poi nel frattempo e dopo, se troviamo il numero, forse sorpresina. Mandalo. Dopotutto, domani. Una bella bestia. Ciao a tutti amici e amiche di Fuoco alle Polveri di Radio Wombat. Oggi per una bella bestia parliamo della Mellivora capensis o tasso del miele. Il tasso del miele è un mammifero della famiglia dei mustelidi, del genere della Mellivora e della specie della Mellivora capensis per l'appunto. La famiglia dei mustelidi comprende anche altri animaletti come il tasso, la donnola, la faina, il visone, la lontra, il furetto, l'ermellino, il ghiottone. E però oggi noi parliamo del tasso del miele. Il tasso del miele è un animale lungo circa un metro da adulto, pesa circa 15 kg il maschio. Il muso è simile a quello del tasso, però è appiattito, è nero con una striatura sulla schiena spesso bianca o argentata. Abita in India, Medio Oriente e praticamente in tutta l'Africa e si nutre di un po' di tutto quello che trova. Soprattutto, a parte le verdure, si nutre di topi, serpenti, insetti, uccelli, uova, tartarughe, rane, anche piccole antilopi. Vive circa 14-15 anni e vive da solo o in coppia. Ha una pelliccia ispida ma molto larga, floscia e molto resistente, soprattutto intorno alla gola. Sembra che colpi di macete ripetuti non lo scalfiscano. Sono molto aggressivi, sono animali molto aggressivi, ci piacciono abbastanza. Scacciano addirittura leoni e iene quando si trovano intorno a una carcassa che interessa al tasso. Uccidono cobra e altri serpenti velenosi sia in India che in Africa, anche perché sono immuni al veleno di questi serpenti. Il morso di un cobra lo fa addormentare per un quarto d'ora circa. Attaccano anche l'uomo e tanto che c'è una storia che veniva raccontata a Bassora in Iraq durante l'invasione delle truppe alleate, diciamo. Bassora fu occupata dalle truppe britanniche. Nel 2007, dopo i primi attacchi delle truppe britanniche alla città, si era diffusa la voce che appunto l'esercito britannico avesse sguinzagliato per la città di Bassora dei tassi del miele e per portare panico tra la popolazione, tanto che un portavoce dell'esercito britannico pubblicò una nota dicendo: possiamo affermare categoricamente che non abbiamo sguinzagliato nell'aria nessun tasso mangiatore di uomini. E questo per dire quanto questi animali possono creare problemi anche a comunità umana. Perché però si chiama tasso del miele? Perché è ghiotto di miele principalmente, gli piace molto il miele, però ha difficoltà nel trovare gli alveari, comunque è un lavoro lungo trovare gli alveari. E quindi il tasso del miele ha sviluppato nel corso dei millenni probabilmente una sorta di alleanza animale con un altro simpatico abitatore dei suoi habitat, ossia un uccello che si chiama indicatore gola nera. È un piccolo uccello, anche lui amante del miele. È molto amante del miele, ma anche lui, cioè a differenza del tasso del miele, scusatemi, teme molto le punture delle api, mentre il tasso del miele è praticamente immune alla puntura delle api. E però, a differenza sempre del tasso del miele, ha una grande facilità di trovare gli alveari. È proprio una sua capacità innata, quella di trovarli. E quindi cosa succede? Il piccolo uccello, con dei richiami vocali, attira l'attenzione del tasso. Una volta ottenuta l'attenzione del tasso, compie delle piccole picchiate in volo nella direzione dell'alveare. A quel punto il tasso del miele capisce che lì c'è l'alveare, si reca nei pressi, soprattutto negli alveari, quelli interrati sottoterra, sbuzza tutto, scaccia le api che provano a pungerlo ma non ne fanno niente, quindi se ne vanno, e si sgana tutto il miele. Dopo passa il nostro amico indicatore gola nera e mangia la cera rimasta di cui è ghiotto. Tra l'altro l'indicatore gola nera è alleato anche con un'altra specie che abita questi habitat, che è l'uomo. La popolazione degli Adza, che è una popolazione di circa 1000 persone che vive in Tanzania, vive ormai da millenni come praticando la caccia e la raccolta, quindi non ha praticamente contatto con la società industrializzata della Tanzania e ha pochi contatti anche con altri gruppi vicini. E tra l'altro sono una popolazione particolare perché è una popolazione che non ha riti, non ha credenze religiose, non festeggia compleanni o scadenze stagionali, e addirittura non contano il passare del tempo, né in ore, né in settimane, né in anni. Non hanno praticamente la concezione del tempo che abbiamo noi. Ma al di là di questo, gli Adza, anche loro ghiotti di miele, nel senso che nella loro alimentazione uno dei fattori energetici più importanti viene dato dal miele, e anche loro hanno sviluppato nel corso dei millenni un'alleanza con l'indicatore gola nera. Infatti hanno imparato a capire quando l'indicatore gola nera fa il suo richiamo e a interpretare la picchiata, quindi anche gli Adza, questa popolazione, riesce a trovare il miele e a nutrirsene e a utilizzarlo grazie all'indicatore gola nera. Anche l'indicatore gola nera dopo può andare a surfolare nell'alveare ormai noto, ormai scacciato dalle api. Questo appunto era il tasso gola nera, no, il tasso del miele, scusatemi, e l'indicatore gola nera e la loro convivenza. E non entrambi sono animali che non sono a rischio di estinzione, a differenza di altri mustelidi che invece sono stati usati dall'uomo, soprattutto pensiamo alla faina, al visone, per usi industriali o artigianali, insomma, per le pellicce. Il tasso del miele non ha mai subito queste angherie da parte dell'uomo, anche grazie alla sua spiccata indole aggressiva. Qui si conclude questa follia, vi saluto, vi mando un abbraccio e viva Wombat, sempre. Ciao a tutti. Domani. Una bella bestia. E meno male che il buon Joao ci aggiorna sui mustelidi in generale, sì, e sì, sul tasso del miele in particolare. Minchia, animale tremendo, eh. Porca miseria. Potrebbe battere anche il nostro gatto. Vero, forse. Vero. Bene, ora che sappiamo tutto su questi animaletti, possiamo chiudere, perché è giunta l'ora. Chiudiamo. Ci sentiamo lunedì prossimo, le frequenze sono le stesse, 13.59 AM, oppure in streaming wombat.noblogs.org. Ci state sentendo, dai. Ci state sentendo, o di qua o di là. O di Bobbis. Fate Bobbis, il Wombat vi saluta, Grande Lago, faccio un saluto da Grande Lago, dai. Oh! Fuori Polveri torna lunedì prossimo alle 17, o meglio 17:15, contando il ritardo consueto che noi portiamo. Non vi scordate di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze alle 20:30, 21:30, Coccoli al Silicio.